Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo ad occuparci di disabilità stasera a Smart City, o meglio di tecnologie dedicate al mondo della disabilità, un settore in fortissimo fermento negli ultimi anni grazie anche al progresso delle tecnologie delle telecomunicazioni e in particolare alla rete. Basta pensare agli SMS, a come hanno cambiato la vita dei non udenti permettendo loro di accedere allo strumento telefono come tutti gli altri. Stasera allora parliamo di Horus Technology, startup che recentemente ha ottenuto la menzione speciale al premio Edison Start con un dispositivo davvero avanzato dedicato ai non vedenti. Ci racconta tutto il responsabile scientifico di Horus Technology, Luca Nardelli, che ho incontrato proprio in occasione del premio. Sentite. Horus è un dispositivo elettronico indossabile, va agganciato a un qualunque paio di occhiali e si collega a un altro piccolo dispositivo da tenere in tasca via cavo. Sfrutta la computer vision, quindi ha un sensore visivo che osserva la scena. Qui ci sono delle telecamere su questo, sì, diciamo un sensore composto da delle telecamere. Esattamente, e analizza la scena e poi estrae tutte quelle che sono le cose di interesse e le riferisce alla persona tramite un dispositivo a conduzione ossea. Cioè una specie di speaker che però invece di passare, diciamo, di mandare le onde sonore attraverso l'aria, le fa passare dalle ossa proprio della testa. Come mai questa scelta? È un piccolo dispositivo che vibra e fa vibrare le ossa della testa che poi trasmettono questa vibrazione al timpano. È un po' come le cuffie che usano i nuotatori in piscina. Perché questa scelta? Perché usare una cuffia andrebbe a limitare quelle che sono l'udito della persona. E quindi, visto che le persone che non possono fare completo affidamento sulla vista si affidano invece al loro udito, una cuffia in queste situazioni sarebbe eccessivamente limitante. Quindi immaginiamo di avere questi occhiali speciali, diciamo, con questo dispositivo. Io sto camminando per strada e che cosa mi dice questo dispositivo? Ma nel caso in cui la persona stia camminando, il dispositivo sarebbe più incentrato sull'aiuto alla navigazione. Quindi nel caso dovesse rilevare degli ostacoli che sono oltre il raggio della porta del bastone, ad esempio, potrebbe dire alla persona: attenzione, magari c'è un cartello troppo basso, un ramo sporgente o cose di questo tipo. Se trovasse invece delle insegne o ad esempio i cartelli con i nomi delle vie, potrebbe leggerli alla persona e quindi assisterla. Magari un lavoro in corso, cioè una buca per strada dove prima non c'era. Certo, anche cose di questo tipo, specialmente perché sono segnalate anche da cartelli ogni tanto. Ecco, ci sono informazioni che arrivano dal dispositivo alla persona, ma poi questa persona può anche interagire, no, col dispositivo. Esattamente. A che scopo e come? L'interazione abbiamo cercato di renderla il più naturale possibile. Per questo vogliamo offrire alla persona di interagire sia con i pulsanti, perché è più comodo interagire con i pulsanti, sia tramite sistemi di comandi vocali, sia anche con un sistema automatico in cui il dispositivo capisce lo stato della persona, quindi se è ferma, se sta camminando, se si è voltata di scatto, e in modo che il dispositivo possa configurarsi autonomamente in maniera ottimale per il compito che la persona sta svolgendo. E che cosa si chiede a questo dispositivo? Che cosa gli si dice? Potrebbero essere, ad esempio, se la persona ha in mano un libro, potrebbe chiedere al dispositivo di leggere il libro che la persona ha in mano. Quindi il dispositivo capirebbe che quello davanti a sé è un libro, guiderebbe la persona verso il corretto posizionamento del libro e poi trasformerebbe il testo stampato in voce per la persona. Quindi diciamo che in tasca si ha sostanzialmente un computer che elabora delle immagini, qualunque esse siano, riprese dalle telecamere, e capisce che cosa ha davanti. È una specie di intelligenza artificiale, sembra una roba complicata. Infatti, oltre alla computer vision, di solito vanno sempre a braccetto il machine learning e l'intelligenza artificiale, che sono queste tematiche che sono volte all'apprendimento dai dati. Quindi in sostanza il dispositivo parte da quelli che sono i pixel dell'immagine, come acquisita da una telecamera, estrae quelle che sono delle caratteristiche salienti e usa quelle caratteristiche per identificare gli oggetti nella scena o per, ad esempio, estrarre un testo da quello che è tutto il resto di contenuti della scena, insomma per svolgere tutte le funzionalità che deve svolgere. C'è anche un annuncio che volete dare? Con il 19 novembre partirà una campagna di crowdfunding e tutte le informazioni si possono trovare sul nostro sito horus.technology. Bene, torniamo in studio per salutarci, per darci appuntamento a domani. Ricordo a tutti che potete scrivermi a smartcity@radio24.it e mi potete contattare anche su Facebook. Mi trovate col mio nome, Maurizio Melis. A voi tutti una buona serata.